Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti. Allora, sentite questa lettera. Ho 75 anni, sono abbastanza esperto di computer. Dopo la trasmissione sul CUD 2013, ho provato a scaricarmelo. Sono entrato nel sito IMSS e ho cliccato su CUD 2013 servizi per il cittadino. Ho inserito il codice fiscale e il PIN. Sono entrato nell'area personalizzata dove sotto il titolo servizi per il cittadino sono elencati una ventina di servizi e lì mi sono perduto. Solo dopo aver chiesto aiuto ho trovato il mio CUD, cliccando su fascicolo previdenziale del cittadino. All'interno del menu ho cliccato su modelli e finalmente si è aperta una tendina con, tra le altre opzioni, CUD 2013. È apparsa la scritta CUD 2013 e non succedeva niente, fino a quando mi è venuto in mente di cliccare sul numero 2013 e finalmente mi è apparso il CUD. Queste sono le parole del signor Lorenzo, che ci ha scritto a salvadanaio@radio24.it, e ci chiede molto semplicemente: ma non si potrebbe far apparire il CUD semplicemente dopo l'inserimento di codice fiscale e PIN? E poi mi scrive: mi dispiace anche per lei, signora Deborah, ha fatto una trasmissione inutile e superficiale, cerchi di rimediare precisando meglio cosa si deve fare. Allora, noi ci siamo subito cosparsi il capo di cenere e ci riproviamo questa mattina a parlare dell'invio telematico del CUD, del certificato sulla nostra sui redditi che abbiamo percepito appunto lo scorso anno. Una novità di quest'anno dovuta alla legge di stabilità, che ha creato molte difficoltà a molti pensionati, dato che dopo aver fatto la trasmissione settimana scorsa, questa è stata per giorni e lo è ancora la più ascoltata del nostro sito internet, il sito di Radio 24. Oggi abbiamo deciso di bissare, rispiegando di nuovo a tutti i nostri ascoltatori che hanno la necessità chiaramente di avere in mano questo documento, come si fa per ottenerlo, visto che l'INPS e gli altri enti previdenziali non lo mandano appunto più a casa direttamente. 800 24 00 24, il numero per raccontarci i vostri problemi. Se ancora non siete entrati in possesso appunto del documento che attesta i redditi che avete percepito lo scorso anno, raccontateci dove si è inceppato il meccanismo della vostra richiesta, e questa mattina torneremo a rispondere a tutti i vostri dubbi. È tornato con noi il direttore generale dell'INPS, Mauro Nori, che saluto. Dottor Nori, buongiorno e bentornato, grazie. Buongiorno a voi. Grazie anche al collega del Sole 24 Ore, Matteo Prioschi, che è tornato a supportarci. Buongiorno. Buongiorno. Con la U, non con la O, naturalmente, supportarci, non sopportarci. E poi abbiamo con noi anche Franco Galvanini, responsabile area fiscale CAF CISL, perché naturalmente in questi giorni gli sportelli dei centri di assistenza fiscale sono stati quelli più frequentati in assoluto per chiaramente garantire il sostegno alle persone in difficoltà con queste nuove procedure. Dottor Galvanini, buongiorno e benvenuto anche a lei. Buongiorno a voi. Allora, naturalmente, oltre al numero verde potete scriverci al 349-238-6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Andate anche sui social network, siamo lì su Facebook salvadanaio-radio24, su Twitter @salvadanaio24. Rapidamente la borsa. La borsa in Europa oggi è positiva, ma continua ad esserci un clima piuttosto nervoso. Si guarda con grande attenzione all'evoluzione della situazione di Cipro. Oggi il mercato è leggermente più tranquillo rispetto agli ultimi giorni. Ci sono prove tecniche di rimbalzo, 0,5 percentuale di guadagno tra Milano, Francoforte e Parigi, grazie alle rassicurazioni fornite dalla Banca Centrale Europea, che ha confermato il suo impegno a fornire liquidità al sistema bancario di Cipro. Ma in ogni caso il timore ancora che quanto si voleva decidere e si è deciso anche da Bruxelles per appunto affrontare l'emergenza cipriota possa costituire un precedente anche per affrontare altre crisi europee. Questo appunto, come vi abbiamo ampiamente raccontato, in due giorni ha mandato in tilt le borse. Oggi un po' più di serenità, ma il rimbalzo appunto è modesto rispetto alle perdite di ieri e l'altro ieri. Milano più 0,56%, molto bene la Popolare di Milano, più 7,72%, la grande operazione di pulizia di bilancio comunicata ieri anche da questa banca, che vara un aumento di capitale da 500 milioni di euro, che verrà approvato in assemblea nei prossimi mesi. Mediaset più 4%, A2A più 3,66%, Popolare dell'Emilia Romagna più 3,24%, questi i rimbalzi più forti, mentre abbiamo ancora in discesa la Galassia Fiat, che è penalizzata dai dati sulle immatricolazioni auto diffuse ieri in Europa, ancora vendite in calo molto forte, ancora vendite in calo a due cifre per Fiat, oggi meno 1,60, Exor meno 0,45. Il gruppo, la holding di riferimento di casa Fiat, ha comunicato la conversione obbligatoria delle azioni privilegiate e risparmio in ordinarie per semplificare la struttura di capitale, e questo è quanto oggi dice il mercato. Tra gli altri ribassi, Prysmian meno 1,10, l'automatica meno 0,8, euro su dollaro a 1,2917. Stasera abbiamo la riunione della Banca Centrale Americana sui tassi di interesse, poi la Fed rivede anche le previsioni di crescita dell'economia americana, c'è anche il direttivo della Banca Centrale Europea, non è il direttivo sui tassi di interesse, ma è probabile che verrà emesso un comunicato sulla situazione cipriota. Per la borsa è tutto, andiamo al tema di oggi, CUD online, le difficoltà dei pensionati. Quest'anno l'appuntamento con il CUD, che dà il via alla stagione delle dichiarazioni dei redditi, riserva una novità sostanziale. La recente legge di stabilità ha infatti previsto per le pubbliche amministrazioni l'utilizzo del canale telematico per l'invio di comunicazioni e certificazioni al cittadino, allo scopo di abbattere tempi e costi di consegna. Anche per i pensionati, quindi, il documento che attesta l'ammontare dei redditi erogati nel corso del 2012, delle ritenute operate e delle detrazioni di imposta effettuate, verrà distribuito tramite internet. Bisogna collegarsi con il proprio PIN nella sezione Servizi al cittadino del sito istituzionale www.inps.it. In alternativa, lo si riceverà nella propria casella di posta certificata, nel caso se ne abbia una e l'INPS ne sia già a conoscenza. La novità non è stata accolta in modo positivo da tanti pensionati. In Italia, infatti, la stragrande maggioranza degli over 60 non ha a disposizione un computer o ha poca confidenza con internet. Anche tra chi ha più dimestichezza con le nuove tecnologie, inoltre, c'è chi lamenta una procedura troppo complessa e poco immediata. Stanno arrivando, ovviamente, come era nelle previsioni, tante vostre richieste di intervento, tanti. Ecco, tra l'altro, quello che mi diverte adesso è che al momento ancora le telefonate sono in un, come dire, in un flusso ordinario. Vedo invece tanti commenti su Facebook, per cui sono tutti, come dire, inesperti delle nuove procedure tecnologiche per scaricare il CUD, però su Facebook ci vanno tutti. Ci vanno soprattutto però i figli dei pensionati, e quindi saluto Elena e Alessandra, che sono appunto due figlie di genitori anziani che hanno richiesto aiuto per appunto scaricare il CUD. Anzi, ve le leggo subito queste testimonianze. Elena ci racconta: mia madre ha 84 anni, ha telefonato, Elena, per conto di sua mamma, al numero dell'INPS chiedendo l'invio del CUD. Dopo circa 7 giorni ancora non aveva ricevuto nulla. Nel frattempo si era portata avanti, ha iscritto online sua mamma al sito dell'INPS con appunto la procedura del codice fiscale del PIN. Nel giro di 4 giorni è riuscita a stamparlo. Posso comunque immaginare, dice Elena, il disagio delle persone molto anziane che non hanno nessuno che le possa aiutare. Ci sono però gli sportelli fisici dell'INPS, dei CAF, per poter aiutare queste persone. Detto questo, dottor Nori, dobbiamo raccontare un po' di cose, di fare il punto della situazione da parte dell'INPS. Le chiedo prima di tutto di rispondere all'ascoltatore che mi ha detto che settimana scorsa ho fatto una trasmissione inutile. Lui ci ha descritto la procedura ed effettivamente è un po' complicata. Avete semplificato un po' le cose in questi giorni? Abbiamo semplificato sicuramente le istruzioni. Le procedure del nostro sito web, come tutte le procedure informatiche, sono procedure ad albero, per cui si clicca entrando direttamente nei singoli temi. È chiaro che per poter ottenere il CUD, che ricordo, rammento anche a me stesso, è un documento che, pur non essendo sensibile, è un documento che rappresenta comunque un profilo di riservatezza perché attiene ai redditi previdenziali o assistenziali detenuti dal cittadino che ha avuto prestazioni dell'INPS, e quindi sono dati che comunque rappresentano una certa sicurezza. Accanto al problema tecnologico occorre inserire delle procedure di sicurezza. Comunque voglio da questo punto di vista rassicurare l'ascoltatore, come tutti gli altri cittadini, che il nostro è un processo complesso che cerca di migliorare anche sulla base dell'esperienza che sta facendo anche in questa operazione. Abbiamo inserito un banner dove si possono stampare ovviamente tutti i passaggi necessari e indispensabili per stampare il CUD. Adesso vado a riaprire il sito e così ne prendo coscienza anche direttamente. Dottor Nori, senta, ci può ridare qualche cifra proprio per verificare effettivamente come i pensionati interessati si sono comportati in questa fase, soprattutto coloro che sono stati in difficoltà? Lei settimana scorsa ci aveva dato delle statistiche, dei dati appunto su quanti pensionati avessero già scaricato tramite la procedura online il proprio CUD. Quanti invece hanno fatto ricorso alle altre modalità? Quanti si sono rivolti per esempio al numero verde appositamente dedicato che avete attivato per farne richiesta? Chi invece utilizza la mail, posta certificata o posta ordinaria? Chi va al CAF? Chi va ai vostri sportelli IMSS? Avete delle cifre? Allora guardi, le cifre per quanto riguarda il cittadino e quindi direttamente il singolo che scarica da web, attualmente sono oltre 1.750.000 soggetti che hanno già scaricato il proprio, la propria dichiarazione e il proprio CUD. Abbiamo da contact center oltre 450.000 soggetti che hanno fatto questa richiesta tramite contact center, abbiamo 15.000 che hanno utilizzato degli sportelli self-service da Poste o negli altri uffici anche comunali dove sono collocati questi sportelli self-service. Abbiamo oltre 50.000 da Poste tramite il circuito Reti Amiche. Reti Amiche, sì. Abbiamo oltre 500.000 soggetti che hanno già ritirato il proprio CUD attraverso le nostre 400 sedi sul territorio. E poi abbiamo ovviamente tramite posta elettronica certificata oltre 240.000 soggetti. L'operazione sta avendo un grande successo dal nostro punto di vista. Non ci addormentiamo su questi numeri, lavoriamo ovviamente su tutte le richieste che ci vengono segnalate e su tutte le disfunzioni. Aggiungo dalla lettura della lettera al cittadino che sicuramente si può semplificare e perfezionare ogni processo, però io vorrei rammentare che non bisogna affrontare questi problemi con superficialità. Pensare di poter realizzare un'architettura informatica esclusiva per il CUD, quando da questo punto di vista l'architettura informatica deve essere necessariamente unica per tutte le attività che in questo momento sta svolgendo l'Istituto. Io rammento, noi siamo impegnati non solo su un'operazione massiva di CUD per oltre 18 milioni di soggetti, siamo impegnati sugli esodati, un problema altrettanto grave e serio per salvaguardare i soggetti che hanno perso il lavoro. Sì, poi adesso siamo online sul sito. Io vorrei dare questi segnali, non tanto per assumere e ricevere una sorta di assoluzione. Vorrei dire semplicemente non affrontiamo problemi complessi con eccessiva superficialità. Detto questo, grazie in ogni modo a queste trasmissioni e a tutti i suggerimenti che ci arrivano, perché migliorare è sempre possibile. Certamente, no, più che altro diciamo che questa novità quest'anno, per chi non si fosse accorto del fatto che voi avevate già comunicato a tutti i pensionati che quest'anno ci sarebbe stata questa evoluzione, molti si sono trovati totalmente impreparati, perché poi anche i documenti che a volte arrivano a casa con delle comunicazioni non si leggono con attenzione, e comunque le persone molto molto anziane è evidente che sono state un po' spiazzate. Poi chiaramente con calma si spiega loro che ci sono anche altre modalità, però per chi era abituato a ricevere ovviamente il documento direttamente a casa con comodità, è chiaro che è stato un po' un po' sorpreso di questa notizia. Detto questo, Matteo Prioschi, che era molto interessato appunto ai dati del dottor Nori sui flussi di richieste e le varie modalità appunto che sono arrivati, volevo chiedere se aveva un'altra domanda, perché il dottor Nori anche oggi poi ci deve lasciare, e poi concluderò, ho ancora mezz'ora di tempo per Galvanini e per Matteo. Sì, no, io avevo solo un dubbio, ve lo chiedo un chiarimento. Se non sbaglio, dottor Nori settimana scorsa aveva riferito di quasi 2 milioni, se non sbaglio, di moduli prelevati dal sito, e invece adesso si parla di 1,7. Volevo capire la discordanza tra queste cifre, un chiarimento se possibile. Era una previsione quella di settimana scorsa. Sì, attualmente sono 3 milioni e mezzo, perché poi le modalità di prelievo dal sito, oltre al 1.800.000 cittadini, oltre 500 dalla sede dall'INPS. Ah, quindi quelli anche che vanno all'INPS lei li considera come scaricati dal sito? Sono comunque scaricati sulla modalità, queste le possiamo anche cassare da questo punto di vista, perché è la sede che li preleva e quindi li possiamo, però su tutti quelli che sicuramente sono online ci sono 1,5 milioni dal cittadino, 450.000 dal contact center, 250.000 dalla PEC, e poi abbiamo reti amiche, sportelli self-service, medici che certificano l'invalidità civile, datori di lavoro, direttamente dai comuni e poi anche dalle aziende. Tutte queste sono tutte modalità che sono, se volessimo cancellare la sede, ne abbiamo già distribuiti oltre 3 milioni. Benissimo. Rispetto a quelli dell'ultima volta. Le faccio sentire una domanda di qualche ascoltatrice prima di lasciarla andare, dottor Nori, così magari se interagiscono direttamente con un funzionario dell'INPS i nostri ascoltatori sono più gratificati. Mariuccia da Busto Arsizio, buongiorno, rapidissima, grazie. Buongiorno, rapidamente. Io è la quarta volta che chiamo l'INPS attraverso il call center perché non ho la possibilità di avere computer e ho una figlia in Cina e l'altra in America, non posso contattare tramite altri. Di conseguenza, ed è 3 settimane esatte che sto aspettando il CUD. Stamattina, 10 minuti prima che lei iniziasse la trasmissione, ho chiamato di nuovo l'INPS attraverso il call center e mi hanno detto che il CUD è stato inviato. Questo è già da 3 settimane che questo CUD è in giro. Allora, io adesso l'ultima risorsa mi rimane la settimana prossima di andare all'INPS il giorno che ho libero, che non faccio la babysitter, e i miei nipoti a farmi dare questo, certo, questo benedetto CUD, perché dovrei andare i primi di aprile a fare il 7.30. Certamente. Io lo so che noi pensionati siamo una categoria infima, però... No, perché Mariuccia? No, perché sì, pur avendo le capacità e l'intelligenza non abbiamo magari i mezzi per avere il computer. No, ma lei ha utilizzato assolutamente il mezzo giusto, perché ha la disponibilità del numero verde dell'INPS che è stato creato appositamente per questo servizio. Il tema è, Mariuccia, probabilmente o è successo qualcosa al suo CUD o questo è un tempo ragionevole, fisiologico, oppure il flusso di documentazioni inviate in questo periodo è talmente alto che c'è probabilmente anche qualche ritardo. Dottor Nori, cosa rispondiamo a Mariuccia? Allora, io voglio innanzitutto rassicurare la nostra pensionata che se non esistessero i pensionati non esisterebbe l'INPS, quindi da questo punto di vista noi siete abbiamo ben contenti piena... di servirli bene. Assolutamente, da questo punto di vista, quindi lei sia tranquilla che da questo punto di vista lei è la nostra ragione di esistenza. Il problema è, se il call center le ha detto che il suo CUD è stato inviato, esistono anche i tempi postali. Rammento a me stesso, perché poi molto spesso queste cose si conoscono poco, che in questo periodo, oltre alla spedizione massiva che avveniva dall'INPS, avvengono anche spedizioni massive, questo ci viene riferito da Poste, di bollette telefoniche, conti correnti postali, e molto spesso questo intasano anche le stesse procedure postali. Detto questo, la questione dei tempi mi fa anche fare una sottolineatura. Lo scorso anno la stessa operazione inviata per posta è arrivata ai nostri cittadini nel mese di aprile. Attualmente noi ci troviamo il 20 di marzo, avendo già completato circa il 60% dell'operazione. È come se noi dovessimo ancora cominciare, avendo spedito, se avessimo utilizzato il meccanismo della posta ordinaria per la spedizione del CUD. Questo non ci esime dal migliorare le nostre performance, ma noi stiamo qui anche su queste operazioni e in queste trasmissioni per ricevere benissimo input. Dottor Nori, io la ringrazio per essere stato con noi, sono in grande ritardo, le rivolgo un suggerimento per il prossimo anno, ed è quello che ci aveva fatto un ascoltatore nella puntata precedente, la serata di Sanremo, un bello spot pubblicitario. Ricordatevi che quest'anno a tutti i pensionati il CUD vi arriva così, ne beccate veramente tutti quanti. Quindi campagna pubblicitaria presso i CAF, presso le sedi INPS, ancora più massiccia. Probabilmente lo prossimo anno sarà necessario fare questo, perché quest'anno si fosse appunto perso tutte queste difficoltà. Ma essendo che ormai credo che quest'anno quello che è successo abbia riguardato tutti, probabilmente l'anno prossimo arriveranno tutti un po' più preparati e faremo anche noi magari un lavoro di informazione ancora più massiccio. Grazie dottor Nori, buona giornata. Per i pensionati che si trovano in difficoltà a scaricare il proprio CUD dal sito dell'INPS, sono state predisposte diverse modalità alternative. Chi ha dimestichezza con l'email può richiedere il documento anche tramite posta elettronica ordinaria, inviando un messaggio alla casella richiesta@postacert.imps.gov.it e allegando una richiesta firmata e la copia del documento di riconoscimento valido. L'Istituto provvederà a inviare il CUD all'indirizzo da cui è partita la richiesta. In tutte le sedi IMSS il front office viene potenziato, dedicando almeno uno sportello veloce al rilascio cartaceo del CUD. Vengono allestite anche postazioni informatiche self-service, presso le quali gli utenti in possesso di PIN possono procedere alla stampa, chiedendo, se necessario, l'aiuto del personale. Il CUD può essere rilasciato anche a una persona diversa dal titolare, a patto che questa presenti una delega corredata dalla fotocopia del documento di identità dell'interessato. Il cittadino potrà avvalersi di un CAF cui abbia conferito specifico mandato e il certificato potrà essere rilasciato anche dai professionisti abilitati all'assistenza fiscale che hanno sottoscritto con l'INPS la convenzione per la trasmissione dei modelli RED, quali consulenti del lavoro e commercialisti. Sarà inoltre possibile ottenere il CUD presso gli uffici postali appartenenti alla rete Sportello Amico, dietro un corrispettivo a carico dell'utente pari a 2,70 euro più IVA. È stato attivato un servizio telefonico. Contattando un numero verde si potrà richiedere la spedizione del CUD in forma cartacea al proprio domicilio. Il numero è gratuito per le chiamate da rete fissa 800 43 43 20. Per le chiamate da telefoni cellulari è disponibile il numero a pagamento 06 164 164. Metteremo questa scheda anche su Facebook, se vorrete, sul sito di Radio 24, per farvi comprendere bene tutte le modalità alternative che ci sono per scaricare il proprio CUD, che non ne siano quelle appunto telematiche. Quindi se non avete la capacità di andare su internet, sul sito dell'INPS, ci sono tante altre modalità. Chiaramente bisogna anche avere un po' di pazienza in questi giorni, perché il flusso di documenti in circolazione è veramente eccezionale. Franco Galvanini, responsabile area fiscale CAF CISL. Chiaramente anche i CAF in questi giorni, gli sportelli, hanno delle giornate un po' complicate. Certamente sì, cioè noi tra l'altro stiamo avviando la campagna fiscale, per cui ci siamo attrezzati e abbiamo aderito subito, voglio dire, e abbiamo capito subito che la situazione era complicata, quindi ci siamo messi a disposizione, l'INPS ci ha fornito i CUD, siamo in grado di stamparli in ogni nostra sede periferica. Tra l'altro noi abbiamo dato indicazioni molto chiare e precise alle società che operano sul territorio di fornire in genere una assistenza gratuita per tutti coloro che ovviamente richiedono il CUD per fare poi modello 730, RED, ISE e altre pratiche, insomma, certo. Lasciando eventualmente autonomia decisionale per quanto riguarda il cittadino, sempre riferendomi, voglio dire, a un eventuale compenso al cittadino che invece non si rivolga a noi per fare delle pratiche, chieda solo la stampa CUD, ma comunque è un contributo eventualmente di piccola entità che va a coprire, diciamo, lo sforzo organizzativo e i costi proprio specifici di questa attività, tra l'altro attività che ovviamente a CAF come il nostro, che fa quasi 3 milioni di modelli 730, comporta un costo sia da un punto di vista proprio di consumi che siamo costretti, voglio dire, no, a subire, sia da un punto di vista di tempo, però riteniamo che sia giusto farlo come CAF, come centri di assistenza fiscale, sia giusto essere attenti e disponibili e soprattutto cercare in tutti i modi di andare incontro a quelle che sono le difficoltà oggettive che possono avere i pensionati, soprattutto quelli di una certa età. Esatto, soggettive più che altro direi, perché poi ogni caso è un caso a sé effettivamente, come per esempio ci segnalano questi ascoltatori, glielo leggo questo caso, è un po' lungo, dottor Galvanini, perché in realtà poi si scopre chiaramente, anche per chi è particolarmente attento a tutte queste novità e si adegua immediatamente, poi ha strada facendo invece altre sorprese. Ho questa coppia, ci scrive Michele, di coniugi non vedenti, e hanno scoperto, adesso non le sto a leggere tutta la mail che è piuttosto lunga, che per esempio l'INPS dal 2013 non metterà più online i CUD previdenziali per i soggetti non vedenti che percepiscono come noi, ci racconta Michele, la sola, tra virgolette, pensione di accompagnamento. L'INPS risponde: non è possibile inviare nulla, so che sarò io a dover spiegare quanto accaduto al CAF e so che la legge non ammette ignoranze e quindi sarà mia, nostra responsabilità se non presenterò dei documenti relativi alla mia, nostra situazione patrimoniale. Giustamente Michele dice: mi sembra assurdo. È conoscenza di questa situazione per le persone, per esempio, non vedenti, per chi percepisce pensione di accompagnamento? Sì, sì, e questo è un problema che noi abbiamo sottoposto e sollevato, che deve trovare ovviamente una soluzione, perché altrimenti si impedisce a categorie, tra l'altro particolarmente disagiate, di poter adempiere a quelli che sono diritti doveri, insomma, quindi dichiarativi che vengono comunque richiesti a loro per poi ottenere ad esempio l'assegno di accompagnamento o altre prestazioni. Quindi è un po' un paradosso questo sul quale stiamo ragionando e ci stiamo muovendo per con l'INPS ovviamente per cercare di risolvere il problema e risolverlo una volta per tutte, soprattutto insomma, evitando il più possibile di creare condizioni di disagio ulteriori. Certo. Allora, tra l'altro, Matteo, magari ricordiamolo con te, stiamo focalizzando la nostra attenzione sull'INPS, che è l'ente previdenziale che evidentemente eroga trattamenti pensionistici per la gran parte appunto degli italiani, ma in realtà questa nuova procedura online riguarda tutti gli enti previdenziali. Sì, perché la legge di stabilità non fa differenza, parlava esplicitamente di enti previdenziali, quindi riguarda ad esempio tutti quelli dei professionisti che sono enti di natura privata, diciamo, e però anche per questi appunto i numeri sono più piccoli ovviamente. Esatto. Perché gli assistiti sono nettamente numero inferiore, qualche milione, ma di sicuro niente in confronto ai 18 milioni degli assistiti INPS, e probabilmente poi c'è una certa differenza probabilmente anche nel profilo degli assistiti, che in molti casi sono liberi professionisti che diciamo hanno magari più abitudine a usare i mezzi telematici. Certo. Oppure magari a volte hanno anche una consulenza di altro. Esatto. Tipo, il professionista abilitato, il commercialista, no? E quindi diciamo sono più evoluti da questo punto di vista e sono incappati in meno problematico. Comunque diciamo la misura prevista alla legge di stabilità riguarda tutti indipendentemente. Infatti, proprio a proposito di questa ultima precisazione, Alessandra su Facebook ci scrive: ho telefonato all'ente privato in Arcassa che mi eroga la pensione di reversibilità, mi hanno mandato immediatamente il CUD via fax, l'INPS è contattato telefonicamente e me lo manda per posta. Eccoci ritrovati rapidamente per l'ultima parte della trasmissione dedicata ai CUD, la documentazione appunto unica sui redditi percepiti lo scorso anno, e i pensionati che quest'anno hanno dovuto affrontare modalità nuove per poter appunto entrare in possesso di questo documento. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande, vediamo se riesco a prenderne un po'. Chi abbiamo che aspetta? Paolo da Trieste. Paolo, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Mi sono rivolto all'INPS per avere il CUD di mia suocera. L'operatrice mi ha detto che aveva bisogno di parlare direttamente con l'interessata, perché altrimenti per bisogno di riservatezza non poteva inviarlo. Ho fatto presente che comunque il CUD sarebbe arrivato all'indirizzo di mia suocera, come risultava dagli archivi dell'INPS. Però non c'è proprio niente da fare. Questo è un problema legato alla privacy non tatto, a meccanismo nuovo di, come dire, difficoltà che abbiamo sollevato per quest'anno, Paolo, però probabilmente l'INPS chiaramente tutela le persone. Matteo, che ne pensi? Sì, perché è prevista che sia un delegato a ottenere il CUD. Però se fosse andato caso, a un CAF avrebbe dovuto andarci con un documento della delega, oppure anche se si manda la richiesta via internet bisogna allegare il documento, diciamo, del richiedente, del titolare del CUD e così via. Quindi è proprio una procedura per la tutela della privacy. Certo. E anche per aver, diciamo, un riscontro da parte dell'INPS di chi ha di fronte con cui stai parlando. Grazie Raffaella Calandra per questa breaking news, l'avete sentito, appunto è mancato l'ex capo della polizia Manganiello. Andiamo avanti per gli ultimi minuti con la nostra trasmissione. Emilio da Milano, buongiorno. Buongiorno signora. Ci dica. Sono Emilio. Senta, voi parlate di IMSS e non di IMDAI. Vorrei capire se i dipendenti pubblici che ricevevano fino all'anno scorso il CUD dall'IMDAI adesso lo riceveranno dall'IMSS, perché l'IMDAI non manda nessun documento. Mia moglie, sono, che sì, è insegnante, non riceve nulla. Grazie Emilio. Sì, sentiamo allora il dottor Galvanini. Qui abbiamo avuto anche un accorpamento di enti previdenziali all'IMSS. Anche l'EMPALS è passato appunto all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Sì, tutti gli istituti, e comunque la norma prevista al comma 114 della legge di stabilità prevede, come si diceva appunto prima, che tutti gli enti previdenziali rendano disponibile la certificazione esclusivamente in modalità telematica, per cui presumo che il problema riguardi INAIL, ad esempio, per i CUD che deve mettere a disposizione, quindi non ci sono assolutamente eccezioni rispetto a questo. Questo credo che sia un suggerimento che vale anche per Sandra, che ci scrive su Facebook e dice: mio padre è un ex dipendente comunale in pensione, vorrei sapere se anche lo deve far capo all'INPS per il suo CUD. E sì, quindi Alessandra, per lei valgono le stesse regole. Mariangela D'Aleco, buongiorno. Buongiorno. Volevo dire far presente una cosa. Quando veniva inviato il CUD a casa, chi aveva i ragazzi con invalidità veniva inviato un documento che si chiama ICRIC, che doveva essere consegnato entro il 31 di marzo, cioè questo documento attestava se il figlio era a casa, se era ricoverato, quali potevano essere i periodi non domiciliari. Comunque questo, sono andata all'INPS, ho ritirato il mio CUD, ma il mio scopo andare all'INPS era sapere di questo CRIC e non mi hanno saputo dire niente. Mariangela, sentiamo cosa ci dice Franco Galvanini, se è a conoscenza di questa documentazione che va legata al CUD e riguarda appunto le persone con disabilità. Allora, fino all'anno scorso c'era il famoso bustone INPS che conteneva, oltre al CUD, l'OBSM, poi i CRIC, cioè diciamo la documentazione relativa delle invalidità civili o il RED se richiesto. Quest'anno, con questa novità del CUD telematico, ovviamente non c'è più il bustone, e per quanto riguarda questo tipo di prestazioni l'INPS quest'anno predispone comunque l'invio cartaceo di questa documentazione e anche dei RED. Noi riteniamo, per le notizie che abbiamo, ma forse questa era una domanda alla quale poteva rispondere meglio il direttore Nori, dottor Nori. Sì, purtroppo ho potuto star comunque le posso dire che per le notizie che abbiamo noi nel mese di aprile queste persone dovrebbero ricevere una busta dall'INPS contenente appunto la richiesta, questo modulo relativa all'ICRIC ai RED. Quindi ecco, la questione non si pone, ci sarà uno slittamento nella presentazione e presumibilmente la scadenza sarà verso metà anno, insomma, la scadenza. Quindi Mariangela, ecco, abbia ancora stare abbastanza tranquilla, diciamo, da questo punto di vista. Che cos'altro possiamo chiedere, Matteo? Adesso sentirò anche altri ascoltatori, vabbè, ci stanno scrivendo in tanti, ognuno ha naturalmente tantissimi casi da presentarci. Ah, peraltro, Roberto, dopo la vostra ultima puntata ho mandato mia madre alla sede IMSS di Piacenza, alla quale hanno consegnato CUD e busta chiusa con PIN. Giustamente Roberto dice, insomma, mia mamma si poteva muovere tranquillamente, non ha avuto bisogno di grandissima assistenza e quindi si è rivolta allo sportello IMSS più vicino. Quali altre situazioni problematiche secondo te dobbiamo sollevare delle quali non abbiamo parlato stamattina? Ma più che altro diciamo i che duplicati del PIN, per esempio, mi viene in mente. Sì, che duplicati del PIN è appunto per chi l'ha perso o comunque non se lo ricorda più, c'è sempre la possibilità di o riattivare la parte di PIN, perché il PIN è composto di due blocchi, diciamo, o di riattivare la parte che si ha già e di cui si è dimenticata la seconda, oppure richiedere una nuova emissione. Ovviamente la cosa richiederà un po' di tempo, perché la procedura prevede che poi vengano spediti in due tranche tutti i codici che servono per accedere al sito, quindi la procedura è piuttosto lunga. Di sicuro, tra l'altro ricordiamo che rispetto al precedente PIN di 16 numeri adesso deve essere utilizzato 8. Quello da 8, perché c'è un ascoltatore, Giovanni, sintetizzo io la sua domanda che è piuttosto lunga, che appunto ha inserito per la richiesta del CUD il PIN a 16 numeri e gli ha detto sbagliato perché doveva utilizzare quello più sintetico. Allora, perché almeno stando alla comunicazione IMSS, praticamente anche chi ha ancora il codice a 16, nella prima volta che lo utilizza, d'ora in avanti, gli verrà trasformato in un codice a 8. E quindi diciamo che l'operazione dovrebbe andare comunque a buon fine. E la trasformazione dovrebbe essere automatica. Però almeno se ci prova 2-3 volte già lì il meccanismo invece, esatto. Lui dice che sul telefonino gli sono arrivati altri 8 numeri, per cui quelli sono quelli definitivi, immagino, del PIL da 8 da utilizzare. Dovrebbe essere quello nuovo da utilizzare, esatto. E insomma, dottor Galvanini, quanti problemi agli sportelli CAF in questi giorni? Gliene abbiamo aggiunti anche altri, quindi la casistica si amplia, ma speriamo di poter mandare avanti anche questa stagione di dichiarazione dei redditi per i pensionati con serenità. E sarà necessario, magari prossimamente ci ritorneremo. Ha qualche ultima raccomandazione da farci? Ma no, io spero che ci siano tante trasmissioni come questa, perché il vero problema è quello comunque dell'informazione. Mi è piaciuta prima la cosa che ha detto quella ascoltatrice, ditelo a Sanremo, perché il problema che abbiamo oggettivamente, noi vediamo, stiamo constatando che comunque, siccome sono milioni e milioni i pensionati, non tutti ancora sono consapevoli del fatto che quest'anno non riceveranno una busta completa. E questo potrebbe creare ovviamente dei problemi per coloro che ad esempio hanno l'obbligo di fare la dichiarazione. Esattamente, perché magari hanno due spese sanitarie da scaricare. Io auspico che ci sia da parte dei media, e apprezzo molto questo tipo di trasmissioni. Grazie. Perché proprio consentono di dare informazioni. Devo salutarla perché sennò ci chiudono. Grazie. Domani con voi c'è Valeria De Rosa. Noi ci ritroviamo venerdì. A tutti buona giornata.